falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Oggi parliamo di una di quelle figure che a me piacciono molto, perché io sono abituato a non dividere il mondo in buoni e cattivi, c'è sempre una terza via per tutti, e questa è la terza via. È una donna controversa, intensa, una intellettuale, una poetessa, una folle, molto amata, molto odiata. Oggi parliamo di Yoko Ono. Basta pronunciare il suo nome e il pensiero di tutti voi sta già correndo a John Lennon, e molti di voi stanno dicendo: la donna che ha diviso i Beatles. In effetti non è così semplice la vicenda, e noi cercheremo di capirci qualcosa di più. C'è un'immagine che compare subito davanti agli occhi, è quella famosissima foto di Annie Leibovitz, una delle più grandi fotografe, soprattutto di musica, dove Yoko e John sono stesi su un letto. Lei è completamente vestita, lui è completamente nudo, e le si stringe addosso in posizione fetale. È una specie di bambino, ed è una foto molto esplicativa di quello che era il rapporto di John Lennon e Yoko Ono. E c'era evidentemente una dipendenza quasi infantile di un uomo nei confronti di una donna più vecchia di lui, un uomo che aveva perso la madre da bambino. Insomma, ce n'è parecchio di materiale anche per gli psicologi, anche quelli da due soldi come sono io in questo istante. Però è questo, è evidente, e ascoltando la nostra storia forse avremo un'idea un po' più chiara. Di sicuro il loro figlio Sean Lennon, il secondo figlio di John Lennon dopo Julian che ebbe da Cinzia, ha dovuto convivere fin dalla nascita con questi pregiudizi. Una delle cose più frustranti di crescere come il figlio di Yoko Ono è dovuta all'idea sbagliata che la gente si è sempre fatta di lei, e di dover convivere con questa cosa. Dover leggere tutte quelle cose che la dipingono come una donna oscura, cattiva, come la forza distruttiva che si è imposta nella vita dei Beatles e in quella di mio padre. Intanto cominciamo a dire che Yoko Ono non è solo la moglie di John Lennon, è una grande artista riconosciuta in tutto il mondo. Se non ci credete, potete controllare voi stessi, basta andare a New York. Proprio questo 17 maggio il Modern Art Museum, il famoso MoMA, ha inaugurato una mostra intitolata Yoko Ono, One Woman Show, con lavori che lei ha ideato tra il 60 e il 71, quindi in gran parte quando non conosceva ancora John Lennon. Nella presentazione della mostra è scritto: durante i primi 11 anni della sua lunga carriera, Ono si muove tra New York, Tokyo e Londra, giocando un ruolo pionieristico nello sviluppo internazionale dell'arte concettuale, nel cinema sperimentale e nella performance art. E il MoMA non spreca aggettivi per chiunque, quindi vanno presi per buoni. Nella vita di Yoko l'arte ha sempre avuto un posto predominante, e con essa la possibilità di raggiungere il cuore della gente anche attraverso il gesto creativo. Bob Gruen, che è il fotografo personale di John Lennon a New York, la ricorda come una donna e un artista molto esigente, soprattutto con se stessa. Una volta Yoko mi disse che se con la sua arte la gente non si alza e se ne va, vuol dire che qualcosa non funziona. Perché lei vuole davvero arrivare alla gente, fargli sentire qualcosa, anche se poi molta gente si arrabbia con lei per averli fatti sentire in questo modo. E già mi piace, una che dice voglio che la gente si alza e se ne vada, vuol dire che non è una, come dire, lecchina in cerca di facili successi. Lei nasce in un ambiente privilegiato, nasce in Giappone nel 1933 da una potente e ricchissima famiglia di banchieri. anche il padre è un banchiere specializzato in finanza internazionale, discende da una famosa schiata di samurai, gli Yasuda, un clan molto potente. Insomma, lei viene da un mondo che è quanto di più lontano possa esistere dalla vita complicata di John Lennon, il working class hero senza un padre, cresciuto dagli zii con la madre che muore ragazzina. Quello di Liono è invece un mondo elegante, algido, che possiamo immaginare educatissimo e silenzioso, circondato da giardini rigogliosi, vasi di porcellana e servitù in abbondanza. I felt that, sentivo che mia madre era una donna molto occupata da altre cose. Non era il genere di madre che ti sta dietro, che ti dice di mangiare, cose così. A causa del lavoro del padre, Yoko è abituata a fare la spola tra Giappone e l'America. Intanto nascono due figli, ma lei continua a giocare da sola in mezzo ai curatissimi prati delle ville in cui abita. È a quell'età che appartiene uno dei ricordi più lontani, ma già creativi, di Yoko. Ero in un giardino pieno di alberi da frutta, quando dissi a mia madre: «Perché non prendiamo il seme di un frutto e quello di un altro frutto, li uniamo in un unico seme e lo piantiamo? Potrebbe crescere qualcosa di veramente strano». Fu una delle prime volte in cui decisi che ogni volta che avessi avuto un'idea, volevo mostrarla al mondo intero. Yoko ha 4 anni quando i genitori tornano in Giappone e la bambina viene iscritta alla Gakushui, nella scuola dove studia tutta la famiglia imperiale. Ma lei non è una bambina felice, il padre è via, la madre è occupata in una intensa vita sociale e quindi lei cresce da sola, con le sue paure nascoste dietro uno sguardo apparentemente remoto, enigmatico, uno sguardo che conosciamo bene. Avevo sempre paura, paura del buio, della notte che arrivava, perché quando andavo a dormire avevo tanti incubi. L'arrivo della Seconda Guerra Mondiale e il suo esito disastroso azzera molti privilegi, così anche Yoko comincia a soffrire la fame, il distacco dal padre che è recluso in un campo di concentramento cinese in Indocina. La madre vende quello che può per comprare del riso e così riescono anche a sopravvivere dopo i massicci bombardamenti americani che distruggono Tokyo. Quando la guerra finisce, Yoko torna al Gakushuin, dove è in classe con il principe Akihito, che è l'attuale imperatore del Giappone. Dopo il diploma viene accettata nel Dipartimento di Filosofia, prima donna ad essere accettata. Dopo 2 semestri decide di abbandonare la facoltà, troppo tradizionalista, torna negli Stati Uniti, dove i suoi genitori si sono trasferiti ancora una volta, e si iscrive al College Sarah Lawrence, dove studia musica, visto che lei suona il pianoforte da quando ha 4 anni. Quindi, come vedete, insomma, una donna fuori dal comune. All'inizio i compagni di corso la trovano strana, poi col passare del tempo fanno l'abitudine a questa strana e silenziosa ragazza giapponese. A New York inizia a comporsi un'avanguardia creativa con personaggi strani che conducono uno stile di vita bohemien, e Yoko scopre una sostanza intellettuale che ha facile presa su di lei, e lei per prima comincia a proporre performance surreali, come quella in cui offre al pubblico una scala dalla quale buttarsi sul palco. E grazie alla musica Yoko conosce John Cage, il grande compositore d'avanguardia, che diventa il suo mentore. Intanto si sposa, guarda caso, con un musicista d'avanguardia giapponese che si chiama Toshi Ichiyanagi, e si sposano, vanno a abitare a New York, ma lei inizia a concepire dei progetti artistici che in qualche modo entrano in conflittualità con un marito che comincia a conoscere un po' di notorietà con la sua musica, a differenza di lei. Queste frizioni portano inevitabilmente a una separazione brusca. Lei ha 29 anni, è triste, sola, depressa, tenta di uccidersi. È tornata in Giappone, quindi la famiglia interviene e la fa curare in una clinica psichiatrica. Sembra la fine e forse invece è un inizio. abbiamo lasciato Yoko Ono a leccarsi le ferite per la fine del suo primo matrimonio, l'abbiamo lasciata in una clinica psichiatrica e qui c'è un primo barlume di ripresa, perché lì comincia a ricevere le visite di un inaspettato ammiratore. C'era questo visitatore che continuava a venire tutti i giorni con fiori e cose così. E le infermiere lo adoravano e mi dicevano: devi vedere, quest'uomo è così carino e innamorato di te. E io rispondevo: no, non voglio vedere nessuno. Il visitatore è Tony Cox, che è un jazzista del giro newyorkese. Era arrivato in Giappone con l'idea di studiare calligrafia con Yoko. È un tipo deciso, è un uomo d'azione. Rimane sconcertato dalla quantità di pillole sedative che lei riceve in clinica e che la mantengono in uno stato di passività. Comincia a minacciare i medici e i genitori di rendere pubblico il trattamento che la sua amica riceve se non viene subito dimessa. Potrebbe essere uno scandalo. E poi non c'è niente di più romantico di un eroe che ti salva dai cattivi, ti porta fiori e dolciumi. E in fondo lei ha bisogno solo di sentirsi di nuovo amata. Iniziano una relazione e quando Yoko scopre di essere incinta divorzia definitivamente dal primo marito Toshi. Siamo nel 63 quando nasce Kyoko, la loro bambina. Ma anche questa unione funziona solo per poco. Secondo Kate Millett, che è una scrittrice femminista molto amica di Yoko, il vero problema è lui, è Tony. Non mi piaceva Tony. Pensavo che non fosse la persona giusta per lei. Era uno sbaglio. Era un uomo senza immaginazione che sembrava volesse impossessarsi solo delle sue idee, delle sue performance, cose così. E così inizia un tira e molla. C'è una prima separazione nel 64, poi tornano assieme, lei va di nuovo a New York, torna a creare e si butta a capofitto nella vita artistica della città. Diventa uno degli artisti di punta del movimento avanguardista Fluxus, che è fondato dall'artista di origine lituana George Maciūnas. Il movimento si ispira a Duchamp e ai dadaisti. Il suo manifesto dichiara che l'anti-arte è vita, è natura, è realtà vera, è tutto e l'uno. Sono idee molto simili a quelle di Yoko. Così nel 64 lei concepisce quella che viene considerata una delle sue più memorabili performance, Cat Piece. È sul palco, è vestita di nero, lascia che la gente salga con una forbice e le tagli i vestiti. C'è chi le taglia un pezzettino di manica del maglione, chi le sforbicia all'orlo della gonna, chi le stacca la bretella del reggiseno. Lei è lì immobile, distaccata, col suo solito sguardo enigmatico. Anche l'amica Kate Millett assiste alla performance e ne resta molto turbata. La gente era molto impressionata dalla cosa, molto nervosa. Era una cosa molto forte salire sul palco e prendere le forbici per tagliare. E lei era fantastica, così forte, così coraggiosa, così distaccata, all'avanguardia. Il lavoro sovversivo continua. Dopo Cat Piece è il turno di Bottoms, per il quale Yoko chiede a 356 fra amici e volontari di farsi fotografare con il sedere nudo. Nel redigere il suo annuncio alla ricerca di volontari scrive: si cercano sederi dall'aspetto intelligente per delle riprese, astenersi possessori di sederi non intelligenti. Chissà se avrei passato questa prova. Che Yoko è davvero brillante, la sua mente è alla continua ricerca del paradosso, del surreale, del sovversivo. Non è strano che incontrandola tanta gente rimanga colpita. Anche al di fuori del mondo artistico newyorkese, Yoko inizia a farsi un nome, tanto che una importante galleria d'arte londinese sembra interessata al suo lavoro e le propone di esporre da loro. Vivevo nel centro dell'arte, New York, dove tutto succedeva ed era eccitante. E devo andare a Londra? Poi mi dissi, va bene, ok, non ci devo pensare troppo. E poi arrivai a Londra e bang! Era fantastica, non ci potevo credere. I couldn't believe it. È il 1966. Yoko Ono sbarca a Londra per una mostra personale alla famosa Galleria Indica. È un grande momento per lei. La sua storia con Tony Cox è agli sgoccioli e deve anche conciliare la sua vita di artista con quella di madre della piccola Kyoko. Però la consapevolezza che con il suo arrivo a Londra sta per fare un passo avanti molto importante nella sua arte la riempie di forza e di rinnovato entusiasmo. Indica Gallery nella Londra degli anni 60 è un luogo dove si fa controcultura e il punto di riferimento di tutti gli artisti più moderni del momento e anche dei più irrequieti. Paul McCartney, per esempio, viene spesso qui a cercare libri sull'avanguardia, a sbirciare gli artisti che a volte espongono in questo luogo, che è un po' una libreria, un po' una galleria. E Paul McCartney chiede a John Lennon di accompagnarlo a vedere i lavori dell'artista giapponese. Chissà se se n'è pentito. Grazie all'amicizia con uno dei proprietari, John Dunbar, i due visitano la galleria la sera prima dell'inaugurazione. È la prima volta che John incontra Yoko Ono. Dunbar continuava a insistere con lei dicendole che io potevo essere un buon compratore. Le diceva, potrebbe diventare un tuo estimatore, deve andare a parlarci, fai qualcosa. E insisteva, vai a salutare il milionario. Lei invece si avvicinò e mi consegnò solo un biglietto con scritto respira. Solo questa istruzione. E io lo feci. E questo è stato il nostro primo incontro. È famoso questo biglietto con scritto solo breathe. È il primo di una serie di aneddoti che John Lennon ricorda a proposito del suo primo incontro con Yoko Ono. Tutto quello che succede in quella fatidica sera del 7 novembre 66 ha il sapore di un incontro magico. Love is asking. Stiamo parlando di Yoko Ono e stiamo cercando di sconfiggere i luoghi comuni raccontandovi di una grande artista contemporanea con al suo attivo centinaia di mostre in tutto il mondo, una personale nel grande museo MoMA di New York e quindi non solo della moglie di John Lennon, tacciata anche di rovina famiglia nel senso di rovina Beatles. È un personaggio controverso. Nessuno ha considerato l'ipotesi che Lennon abbia amato Yoko perché è stata la donna che ha saputo aprirgli un mondo completamente diverso da quello dei Beatles, in un momento in cui lui aveva bisogno di trovare un'alternativa a una band che ormai gli stava stretta. Certo, nei momenti in cui ci ricordiamo i Beatles che suonavano con Yoko Ono seduta a fianco di John Lennon, zitto pure a fare dei vocalizzi improbabili, i fan più ortodossi, soprattutto dell'ala McCartneyana, staranno dissentendo con quanto io dico. Però l'ipotesi dell'apertura mentale è suffragata anche da Barry Miles, che è uno dei proprietari dell'Indica Gallery, la galleria famosa, ricordate, dove Yoko e John si erano incontrati la prima volta. Yoko è stata la grande salvezza di John perché in quel periodo lui correva il serio pericolo di diventare dipendente dagli acidi. Si stava letteralmente bruciando il cervello, proprio friggendolo. Quello che accadde quando si misero insieme fu che lui ne uscì fuori e iniziò un nuovo periodo della sua vita. Beh, l'ipotesi alternativa è che sia Yoko a salvare John da una vita da rockstar meravigliosa, ma un po', come dire, ovattata, impermeabile al mondo che cambia. E intanto c'è la mostra all'Indica Gallery, una mostra che si rivela sorprendente. C'era un'altra opera che mi fece davvero incuriosire. Con una lunga scala si arrivava a guardare un quadro che era stato appeso sul soffitto. Era una tela nera e in basso c'era una catenina con attaccata una lente di ingrandimento. Salì la scala e guardai attraverso la lente. Sulla tela solo tre minuscole lettere che dicevano YES. Una parola così positiva. Mi sono sentito sollevato. È un sollievo quando sali su una scala e guardi attraverso una lente di ingrandimento non trovare scritto NO o VAFFANCULO o qualcosa del genere, ma solo YES. Sì. Quindi la storia parte un po' in maniera difficile, perché lei è disturbata da questo personaggio che è una rockstar, che però sa essere insolente, anche maleducato, provocatore, e che non ha ricevuto un'educazione raffinata come lei. Tra i vari pezzi in mostra quella sera c'è anche una mela su un piedistallo con sotto la parola mela, Apple, guarda caso. John, forse come reazione alla vaga attrazione che sente verso Yoko, afferra la mela e le dà un morso. È un po' come se qualcuno staccasse un pezzetto di un quadro mentre accanto c'è il pittore. C'era questa mela e lui la prende e la morde. Io sono impallidita e mi sono detta: come osa questo tizio fare questo al mio lavoro? Non c'è scritto di mordere la mela. Credo che lui capì il mio shock. Ero indignata, irrigidita. Fece una risatina e rimise la mela sul piedistallo. E io pensai: ok, non voglio avere nulla a che fare con questo tizio. Beh, io avrei monetizzato l'episodio scrivendo mela morsicata da John Lennon e il prezzo sarebbe andato alle stelle. Comunque, fin dall'inizio il rapporto tra John Lennon e Yoko Ono solleva grandi polemiche, alcune anche sessiste, un po' razziste, e questo perché hanno sempre preso in considerazione solo lui, John, il maschio, il Beatle famoso, la star popolare, l'occidentale bianco, a scapito di una donna che è un'artista concettuale difficile, enigmatica, impenetrabile, asiatica, che però strega il povero uomo e in qualche modo prende subito una supremazia nel rapporto. John però intanto questa donna l'ha compresa, mentre i suoi fan non capivano cosa lui trovasse in questa donna silenziosa, insomma non bellissima. Lui poteva avere veramente tutte le donne del mondo. Il vero merito di John è stato probabilmente quello di non accontentarsi di una semplice groupie, di una ragazzina che lo guardasse adorante. Il bello è che John capisce di avere trovato la donna capace di completarlo e arricchirlo veramente fino da quella prima sera, arricchirlo intellettualmente e nell'anima. Alla fine di una piccola performance, lei disse che era possibile piantare un chiodo se in cambio le si davano 5 scellini. Io feci il simpaticone e le dissi: bene, ti darò 5 scellini immaginari in cambio di un martello e di un chiodo immaginario. E in quel momento è come se fosse scattato qualcosa. Ci siamo guardati negli occhi. Lei mi ha capito e io l'ho capita. E poi è stato quello che è stato. Intanto però John è sposato con Cinzia e ha un bambino, Julian, di appena 3 anni. Lei è ancora sposata con una bambina, Kyoko, che cresce, e quindi questa attrazione è un po' complicata. John però invita Yoko a casa sua proprio mentre Cinzia è in vacanza. Trascorrono la notte a registrare musica. All'alba diventano amanti. Quando la storia iniziò, io non avevo nessuna idea in proposito su quello che la gente provava nei confronti dei Beatles, cosa loro significassero per la gente, cosa potesse significare il fatto che John stesse con me. E infatti fui considerata come la più grande rovina famiglie del mondo. Ma nessuno ha mai provato a chiedersi se non fosse stato John a rovinare la mia, quella con Tony e con Kyoko. Intanto c'è subito il primo frutto artistico, un album che si chiama Unfinished Music Number 1 to Virgins. I due, come due vergini, sono ritratti completamente nudi e in un mondo nuovo, puro, il loro, che sfugge allo stereotipo Beatles. John era incredibilmente timido. Lo so che non ci crederete, ma lo era. E questo mi faceva sentire come se fossimo fatti della stessa pasta. Eravamo simili. Così Yoko e John divorziano dai loro partner e decidono di sposarsi. Hanno fretta, cercano un luogo dove potersi sposare lontano dai fan. Chiedono consiglio a Peter Brown, l'assistente personale dei Beatles. Eravamo a Parigi e chiamammo Peter Brown dicendogli: «Vogliamo sposarci? Dove possiamo andare?» Lui rispose: «L'unico posto è Gibilterra». E noi: «Ok, andiamo». E ci siamo andati ed era bellissimo. E dove ci sono le colonne d'Ercole, che nell'antichità venivano considerate l'ultimo posto prima della fine del mondo. Erano una specie di porta sul nuovo mondo. Simbolicamente ci piacque molto. E poi era un po' come se la rocca fosse la roccia alla base della nostra relazione. Marzo del 69 si sposano entrambi in bianco, il loro matrimonio ha un eco incredibile e loro ne approfittano organizzando il primo dei loro famosi bed in. Trascorrono la loro luna di miele in una suite dell'Hilton di Amsterdam, dentro al letto tutti i giorni per 6 giorni, circondati da giornalisti ai quali parlano in pigiama della pace del mondo. Il secondo bed in è a Montreal e John registra lì Give Peace a Chance, una canzone che negli anni diventa il vero manifesto pacifista. Anche questa nuova coscienza sociale e politica, secondo l'amico Barry Miles, è tra le tante cose che il resto dei Beatles fa fatica a comprendere. Erano incredibilmente intimiditi da queste cose, tutti, non solo Paul. In particolare Ringo, che sentiva che Yoko aveva rotto la magia, che lo stretto rapporto fra i Beatles stava svanendo, che tutto quello che un tempo li legava stava scomparendo. Quello che avevano vissuto insieme veniva rovinato da questa donna che si era infilata nelle loro vite con suggerimenti, provocazioni, commenti. I sentimenti di Ringo Starr sono quelli che provano tutti i fan. È un sentimento comprensibile, ma in qualche modo infantile, perché è una sorta di pensiero da vecchio gruppetto di amici del cortile che non riesce a tenere conto dell'evolversi dell'esistenza e del pensiero di ognuno. John, al contrario, capisce molto bene quello che sta succedendo. Quando incontrai Yoko è stato come quando si incontra il primo amore e si smette di incontrarsi con gli amici al bar. Non si va più a giocare a calcio o a biliardo. Nel momento in cui la incontrai, la band divenne il passato. Non è stata una decisione consapevole, presa al momento, ma è quello che è successo. Non appena l'ho incontrata, è stata la fine della mia vita insieme ai ragazzi. Solo che in questo caso i miei amici non erano solo gli amici del bar, ma dei ragazzi famosissimi. E quindi attorno alla nuova coppia si alza un polverone incredibile, ognuno dice la sua, e la condanna di Yoko, che è l'unica indiziata nel processo irreversibile che porta alla separazione dei Beatles, è unanime. Quando poi John cambia il suo nome in John Ono Lennon, tutti gridano al plagio, al lavaggio del cervello. E la verità è che la coppia è più avanti degli altri, lo dimostra anche la musica che fanno. Yoko suona con la Plastic Ono Band, è una musica di avanguardia che è incomprensibile a volte a chi l'ascolta. E John nel frattempo però produce un album memorabile, Imagine, nel 1971. E quindi è difficile credere che un uomo plagiato da una donna infernale possa avere prodotto un disco così bello e importante. A modo loro, i due sono una coppia felice. Per tanto tempo Yoko ha avuto una vita molto infelice e difficile. Credo che la relazione con John sia stata la prima volta nella sua vita in cui lei si sia sentita davvero in pace con se stessa. Ma anche per Yoko la felicità è di breve durata. Nel 71 il marito Tony Cox vince una dura battaglia legale per l'affidamento della piccola Kyoko e lei non rivedrà più la figlia per 27 anni, fino al 1998. In più c'è una pressione psicologica tremenda sulla coppia, e provano a trasferirsi a New York perché a Londra trovano solo ostilità, ma negli Stati Uniti l'FBI li mette sotto controllo. C'è un famoso film che parla proprio di questo, lo stress li consuma. C'è chi dice che sia John che cominci a tradire Yoko, e c'è chi dice che sia Yoko che in qualche modo mette in condizione John di tradirla per poi farlo sentire in colpa. Quindi le due versioni contrastano, non si saprà mai dov'è la verità. Si sentivano solo questi rumori imbarazzanti provenire dalla stanza dove stava John. Ed era una cosa molto triste essere a una festa dove il tuo amante sta pomiciando con un'altra donna nella stanza accanto. Poi ognuno reagisce a modo suo. Mentre altri avrebbero urlato e spaccato i piatti per terra, lei restò seduta lì, triste e depressa, aspettando che la cosa finisse. Era fatta così. E poi c'è Mei Pang, la loro assistente. Yoko suggerisce a Jones di mettersi assieme a questa ragazza. È forse un modo per controllarlo ancora, o forse un modo per lasciarlo libero con, come dire, un filo elastico che la riporti da lei. Fatto sta che John e Mei si trasferiscono a Los Angeles, vivono lì un anno, ma poi basta una sola telefonata di Yoko perché John Lennon torni immediatamente dalla sua vera donna. È una prova, è un test amoroso. E quando sono tornati assieme, questa volta, dopo due aborti spontanei, finalmente hanno un figlio assieme. Il giorno del 35esimo compleanno di John, il 9 ottobre 75, nasce Sean Taro Ono Lennon. Per John scoppia un altro grande amore, quello per il figlio. Decide di restare a casa e di occuparsi anima e corpo del bambino. Trascorrono 5 anni intensi, padre e figlio solitari, mentre Yoko si scopre una perfetta businesswoman, prende saldamente in mano le redini del patrimonio di Lennon. La cosa, in un certo senso, funziona, almeno fino all'8 dicembre 1980. The shooting happened just after Lennon and his wife Yoko stepped from a chauffeured car after returning from a recording session. The killer shouted his name, then fired 5 shots at close range. Cradled in the arms of his wife Yoko. It's important that people remember. È importante che la gente capisca che Yoko era lì. Yoko sentì gli spari, vide il marito cadere, i vetri della porta infranti, il sangue sparso per terra, le sirene suonare, e vide il suo compagno, l'amore della sua vita, cadere per terra. Elliot Mintz, il portavoce di Lennon e Yoko, che ricorda il terrore, il panico, il dolore di quei momenti. Pensate che proprio quel pomeriggio Annie Leibovitz aveva scattato la famosa foto di cui abbiamo parlato all'inizio, quella con Yoko e John abbracciati, lui nudo e lei vestita. Tutto è finito, distrutto dal gesto di un folle, Mark Chapman. E lei all'inizio vive come un vegetale, Yoko, poi si riprende, torna a fare arte, si occupa del figlio e dell'eredità artistica di John Lennon, magari anche pubblicando un disco con in copertina gli occhiali insanguinati di John. Quindi sempre in bilico, insomma, tra l'amore e il rapporto un po' strano e malato. Le polemiche sono molte, ma lei ci è abituata. Una vita non semplice, una coppia che ha funzionato proprio perché l'uno colmava i vuoti dell'altra. Yoko moderna, irriverente, però che aveva bisogno di uscire da una elite familiare e nel quale si era mossa nella sua giovinezza per dare una lettura pop e vitale al suo pensiero. E per John il bisogno è speculare. E lei lo spinge a fare meglio, a pretendere di più, a trovare la passione per l'arte, la politica, cambiare la società, anche a costo di lasciare la vita comoda di membro fondatore dei Beatles. È chiaro che un capolavoro come Imagine probabilmente è stato influenzato da Yoko, e lui dice che la canzone arriva dal libro Grateful di Yoko Ono. Però è anche vero, insomma, che John Lennon non è che prima di conoscere Yoko Ono avesse scritto delle canzoni brutte. La verità è che loro insieme sono stati una coppia molto moderna, forse troppo per la loro epoca, una coppia che un po' come Andy Warhol ha trasformato se stessa in un'opera d'arte, ma questo non era facile da accettarsi visto che una parte dell'opera d'arte era John Lennon dei Beatles. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala e anche stupire e spiazzare, come Yoko Ono e suo marito John Lennon Ono. Sono storie di chi è riuscito, ha tentato, è caduto ed si è ripreso un'altra volta. Se volete mandarci dei commenti o segnalarci altre vite su cui volete che noi si punti il mio microfono, fatelo. Visitate la nostra pagina o scriveteci al Falco e Gabbiano oppure alla nostra pagina Facebook. Insomma, se volete, mi trovate e ci trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi.